in diretta su CRM Happy Radio Deja Vu con Mary Catalano. Do you think about when you're all alone? The things we used to do and used to be. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. Do you think about me when the crowd is gone? It used to be so easy, you and me. Eccoci pronti, buongiorno anche oggi insieme, ma che felicità, che bello essere insieme a voi anche per questo giovedì del 21 di marzo. Siamo già entrati in primavera, oggi c'è un po' di vento di troppo però, ma si sa che il mese di marzo è molto molto molto pazzerello, fra virgolette, anzi fra parentesi, diciamo che ormai tutti i mesi sono diventati matti. Ogni mese è stato un po' strano, un po' particolare, un giorno bello, un giorno brutto, non si capisce mai come ci si deve vestire. Sappiamo bene che la vita diventa complicata così per noi, soprattutto quando dobbiamo fare in fretta la mattina, non sappiamo cosa indossare. Prima dobbiamo guardare fuori dalla finestra per vedere com'è la temperatura, com'è il tempo, se piove, se fa caldo, se fa freddo, e poi si deve decidere. Non è che ci si può preparare i vestiti la sera prima, no, non è possibile programmare assolutamente niente. Vabbè, questa era una piccola parentesi. Intanto oggi insieme, come dicevo, comunque con la musica che ci accompagnerà, vi accompagnerà fino a mezzogiorno anche quest'oggi, per quanto riguarda il mio appuntamento che è Deja Vu, che come sapete va in onda il martedì e il giovedì. Ovviamente anche tramite internet potete seguirci ovunque voi siete. Allora vi ricordo subito il www.crmepiradio.it, l'indirizzo internet dove potete seguire CRM in streaming e guardare un po', spulciare un po' fra le curiosità, insomma curiosare nel nostro mondo tramite internet, anche con la pagina Facebook. Mi raccomando, se non siete nostri fan, cliccate mi piace sulla pagina di CRM Radio e sarete appunto amici nostri e ci seguite in qualsiasi momento in tutte le nostre azioni. E la musica continua,

in cerca di sante ragioni, e c'è sempre un gran sole a sorprenderci nell'indifferenza degli arbitri che stanno lì a leggere i monitor con le facce impassibili. E sotto ai miei piedi c'è un baratro, e sulla mia testa c'ho gli angeli, e qui siamo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica, l'amicizia si genera, dove tutto è possibile, dove un sogno si popola, la chitarra si elettrica e risuona gli armonici, dove ridono i salici, dove piangono i comici, e la forza si amplifica ed il sangue si mescola, e l'amore è una trappola, mica sempre però, qualche volta ti libera e ti senti una favola, e ti sembra che tutta la vita non è solamente retorica ma sostanza purissima che ti nutre le cellule e ti fa venire voglia di vivere fino all'ultimo attimo. Dove suona la musica, nella terra degli uomini, dove trovi anche un posto per chi ti sorride da un angolo, fino all'ultimo attimo, fino all'ultimo attimo, fino all'ultimo attimo. Déjà Vu su CRM Happy Radio. For the cold, maybe in home. A CRM Happy Radio, Joan Osborne con One of Us, un grande successo per lei e per qualcuno che stamattina non ha avuto il tempo di seguire il telegiornale o il radiogiornale. Sappiate che ormai è legge l'abolizione delle province in Sicilia. Con il voto finale dell'Assemblea regionale siciliana, questa sera al termine di una maratona oratoria di quasi 6 ore, gli enti intermedi vengono soppressi per essere sostituiti con i liberi consorsi di comuni. Così le votazioni, 51 favorevoli, 22 contrari e un astenuto. La legge varata dall'ARS di soli 2 articoli prevede la nomina di commissari nominati dalla regione al vertice delle 9 amministrazioni provinciali decadute e l'annullamento delle elezioni provinciali che avrebbero dovuto tenersi in concomitanza con le comunali a fine maggio. Entro il 31 dicembre dovranno essere definiti i dettagli e modalità della transizione delle province ai consorsi di comuni e la legge ha ottenuto il voto favorevole dei deputati della maggioranza, i cui principali partner sono PD, UDC e Lista Crocetta, e di quelli del Movimento di 5 Stelle, che propugna l'abolizione delle province nel suo programma. Il sì finale dell'ARS era scontato, dopo che ieri era passato il maxi emendamento del governo che aveva interamente riscritto la legge, per cui niente più province in Sicilia. Questa ormai è diventata legge. Benissimo, facciamo una piccola pausa pubblicitaria, ma poi ritorniamo naturalmente. Abbiamo ancora un sacco di bella musica da ascoltare, grazie anche alle vostre segnalazioni che già cominciano ad arrivare ai nostri numerini, che torno a ricordare: 335-5637-251, il numero per gli sms, e poi il numero fisso, lo 0921-92-3292. Non dimenticate che avete a vostra disposizione anche il nostro sito internet, da quale potete fare le vostre segnalazioni, e quindi www.crmepiradio.it, c'è uno spazio apposito per fare le richieste, ok? A fra poco. Déjà vu su CRM Happy Radio. Apri gli occhi e te ne vai, la danza è immobile, scopre i tuoi fianchi il vento, e nei giorni ogni momento vorrei percorrere le tue volute velleità. Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in memore che porta il tempo, avrei fermato la guerra inutile con un sorriso, e allora sì, avrei saputo credere. Posi libera nei sensi, la luce mormora dalla finestra stanca, la tensione dei silenzi sembra descrivere ogni tuo sguardo perso. Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia, avrei sfondato le porte ipocrite di un paradiso, avrei toccato quell'anima che vive dentro te. Sai, per sopravvivere ci basta un sogno. E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai, e nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso. Sentirai una forza dentro te che vince ogni limite. E per far sopravvivere i nostri dentini ci basta un chewing gum, proprio così. Sì, è una chicca interessantissima per la vostra salute, la salute dei denti, masticare chewing gum che contengano xilitolo, che sembra essere molto efficace contro le carie. Quindi la lotta alla carie si fa con un chewing gum. Se siete assidui masticatori di chewing gum, comprate quelli allo xilitolo e andate sul sicuro. Lo spiega uno studio italiano effettuato su un gruppo di bambini. Lo xilitolo è un dolcificante le cui proprietà benefiche per i denti sono conosciute. La sua presenza nei dolci in sostituzione allo zucchero tradizionale può aiutare nel prevenire la carie e favorire la rimineralizzazione di piccole lesioni. Uno studio italiano spiega come la lotta alla carie si possa compiere proprio masticando queste chewing gum allo xilitolo, a patto però che le gomme da masticare contengano questo importante ingrediente. Quindi se comprate le chewing gum, comprate quelle allo xilitolo e non avrete più bisogno di andare al dentista, almeno per un bel pezzo di tempo. Ok, andiamo avanti con il nostro appuntamento. C'è la musica dei Go Go Dolls, un grande successo questo, la colonna sonora, una delle colonne sonore importanti del film City of Angels. I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know. Tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, just want you to know. Iris, i Go-Go Dolls, CRM all'interno di Deja Vu. Ancora buongiorno, bentrovati soprattutto a tutti quelli che si sono sintonizzati con noi soltanto da qualche momento, a quelli che in questo istante stanno nella loro vetturina, nella loro automobile, o per passeggiare perché non sanno che fare, o per lavoro, comunque sia, se ci ascoltate mentre guidate, siamo lieti di farvi compagnia, anche se siete incappati così per caso nella nostra radio. CRM Happy Radio comunque con voi, se volete, in qualsiasi momento della vostra giornata, grazie anche a internet, se ci seguite in streaming al www.crmhappyradio.it. Parliamo di sanità. I ticket sono aumentati del 40%, ci avete fatto caso? E più di un cittadino su due si rivolge oramai al privato, e sembrano veramente lontani anni luce quei periodi in cui il nostro paese si vantava del fatto che era la seconda sanità migliore al mondo per capacità e qualità d'assistenza, un patrimonio che non basta più e che rischia di perdersi. La realtà di oggi vede infatti i ticket sui farmaci aumentati del 40%, come dicevamo, più di un cittadino su due che paga di tasca propria visite ed esami per evitare le file della sanità pubblica, e perché tra ticket e super ticket spesso il privato costa meno. C'è poi l'esplosione del welfare, ovvero il fa-da-te, con le badanti che superano i dipendenti di ASL e ospedali, e questo sarebbe il bilancio 2013 della politica di rigore nei conti della sanità italiana, che emerge dal rapporto Oasi dell'Università Bocconi. Di fatto l'austerity sanitaria si sta traducendo in un taglio dei servizi che poi comprendono più tasse e insoddisfazione nei cittadini, il cui giudizio è impietoso. Nel centro-sud la maggioranza valuta inadeguati i servizi offerti dal Servizio Sanitario Nazionale, e poi naturalmente a influire sul livello di qualità percepito c'è anche la massiccia politica di tagli messa in atto dalle 8 regioni sottoposte ai piani di rientro, tanto che il 57% di chi vive in Campania, Lazio, Abruzzo, Molise, Piemonte, Calabria, Puglia e Sicilia si è dichiarato insoddisfatto, contro solo il 23% delle altre regioni, che invece non si lamenta più di tanto. Il caro ticket pesa sulle tasche degli italiani per circa 5 miliardi di euro tra compartecipazione della spesa sui farmaci e per visite specialistiche ed esami diagnostici. Insomma, ci sono delle cifre davvero lievitate in questo senso, ce ne siamo accorti un po' tutti quanti, E pazienza, intanto andiamo a sentire il prossimo singolo. Arrivano in One Republic con If I Lose Myself, il loro nuovo singolo che già comincia a essere molto orecchiabile e molto richiesto, al nostro numero il 335-56-37251. Buon ascolto ancora una volta. Feel the line start. tecnologia incombe ormai in qualsiasi modo, dappertutto, dove ci giriamo, c'è sempre la tecnologia a farla da padrona, anche per quanto riguarda un regalo da fare. Se tu devi regalare qualcosa, vedi Natale, vedi compleanni, vedi cresime, battesimi, cosa devi regalare? La tecnologia, qualcosa di innovativo, un cellulare nuovo, un computer, un tablet, questo si regala ormai. Prima si usava regalare gioielli, adesso si usa regalare la tecnologia. E arriveranno presto gli schermi in 3D, come in Guerre Stellari, e presto li avremo addirittura sul telefonino. Pensate, volete vedere un film sul vostro cellulare in cui le figure escono dallo schermo in 3D, come ha fatto la principessa Layla in una scena di Guerre Stellari? La domanda, diciamo provocatoria, è stata fatta da un gruppo di ricercatori americano che sta lavorando a un prototipo di schermo illuminato capace di fare vedere le immagini in 3D a occhio nudo come se fossero ologrammi. La nuova tecnologia sviluppata dagli Hewlett-Packard Laboration di Palo Alto in California si chiama ottica di diffrazione e permette all'utente di vedere in 3D da qualunque direzione e anche inclinando lo schermo. Pensate, lo riporta il magazine scientifico Nature, e per ora lo schermo può proiettare immagini visibili fino a un angolo di 90 gradi, ma il campo potrebbe essere ampliato fino ad arrivare a 180 gradi. Questo lo ha detto David Fatal, a capo del gruppo di ricerca. Anche la risoluzione delle immagini e la distanza deve essere migliorata. Per ora sono visibili fino a un metro di distanza e in futuro dispositivi con questo tipo di schermo potrebbero essere messi in vendita, a detta di lo ha detto a Nature Neil Dodgson dell'Università di Cambridge Gran Bretagna. La domanda è se gli esseri umani vogliono o hanno bisogno di display 3D di questo tipo. Naturalmente solo il tempo potrà darci questa risposta. Sicuramente è senza dubbio un'altra idea innovativa che arriva appunto dal mondo della tecnologia. Noi andiamo avanti col nostro appuntamento invece, che soprattutto di musica vuole parlarvi, anzi vuole suonarvi, e andiamo avanti con un singolo famosissimo di Vasco Rossi, che già a primo ascolto, alle prime note, abbiamo capito di cosa si tratta, vero? Soprattutto quelli veramente accaniti fans di Vasco. Quanti anni hai? Il singolo che sentiamo. Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi capire. Ti ho pensato, sai, stasera. Ti ho pensato poi, una sfiga. Mi ha telefonato lei per prima, ma ho saputo dire di no, lo sai che storia c'era. Dopo dove vai? Dopo dove vai? Stasera. Stasera. Sai che non lo so. Sai che non lo so. Bambina. Bambina. Certo che trovo, non sei la prima. E di certo no, non sei la più serena. Quello che ti do stasera è questa canzone onesta e sincera, onesta e sincera. Certo che potevo, sai, approfittare di te, ma dopo come facevo a fare senza sé? Meglio che rimani a casa, a casa. Meglio che non esci, meglio che non esci stasera. La notte non è più sicura e non è nemmeno più sincera. Quanti anni hai stasera? sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è. Déjà vu su CRM Happy Radio. I want you to myself. Can we take this somewhere else? My heart's an open book and you just took it off the shelf. You make me make moves. I see you, you know I see you. I break through to get to you. It's so true, it's so true. I see you. To see this through, I see you. Circa un'ora in musica insieme a me, che sono sempre Mary Catalano, e questo è sempre Déjà Vu, l'appuntamento del martedì e del giovedì, questo CRM che vi tiene compagnia sino a mezzogiorno, e naturalmente anche quest'oggi sarà così. La musica italiana degli 883 per voi. Cadono dall'orologio i battiti e non finiscono. Attimi rinchiusi nelle braccia tue, corrono manovre incomprensibili che poi si perdono. Nel telefono quegli occhi tuoi invisibili. Déjà Vu su CRM Happy Radio. I Depeche Mode, CRM Happy Radio con Even, il loro nuovo singolo, sempre all'interno di Deja Vu. Andiamo avanti con il nostro appuntamento e questa volta con la musica italiana di Ezra Mazzotti. Sono gli occhi tuoi dentro i miei, mi basta poco ed ho già capito chi sei, che cosa cerchi tu da me, che cosa vuoi di più da me. Tu vuoi quel graffio al cuore che anch'io fortemente vorrei. Oh, vorrei morire sulle labbra rosse che hai, vorrei sentire i tuoi seni accendersi poi come due piccoli vulcani, sentirli sotto le mie mani e scivolare poi sul pendio, quello dolce che hai è un incontro d'anime. La notte sembra perfetta per consumare la vita, io e te c'ho un bisogno d'amore, sai, non aspetta, è un'emozione diretta, se vuoi, ma non sarà infinita, perché siamo fuoco nel fuoco ormai, facciamo in fretta noi. Fuoco nel fuoco, le passioni tue e le mie, quasi un gioco, sai, mescolare suoni e magie per far salire l'emozione, salire fino al sole e ricadere lungo il pendio, quello dolce che hai è un incontro d'anime. La notte sembra perfetta per consumare la vita, io e te, c'ho un bisogno d'amore, sai, che non aspetta, è un'emozione diretta, se vuoi, ma non sarà infinita, perché siamo fuoco nel fuoco, ma luciamo in fretta noi. Sentirò, così ti sentirò. Ezra Mazzotti qualche sera fa ha tenuto l'ultimo dei 5 concerti previsti a Milano dal calendario del Noi World Tour e dopo 2 giorni di pausa proprio questa sera farà tappa a Caserta, dove terrà ben 2 concerti prima di spostarsi ancora a raggiungere i palazzetti delle più prestigiose città italiane. Oltre 50.000 persone sono giunte a Milano per i concerti di Ezra Mazzotti, che a distanza di 3 anni ha presentato un nuovo album che si chiama appunto Noi, straordinariamente approvato dal pubblico, che è riuscito a fargli raggiungere quota 600.000 di vendite di dischi in tutto il mondo. L'album Noi sta ottenendo un successo incredibile e lo stesso sta accadendo per il Noi World Tour, per il quale sono state aggiunte nuove date inserite proprio per soddisfare la grande richiesta del pubblico. Lo show è incentrato sui brani tratti dal nuovo album di Ezra Mazzotti, appunto Noi, e sui suoi successi del passato e anche il singolo che abbiamo sentito, dunque Fuoco nel Fuoco. Il pubblico, che ha già avuto la fortuna di partecipare a uno dei suoi concerti, ne è rimasto piacevolmente colpito, ed è in primis a questo pubblico, ma anche a quello che invece ancora non ha avuto modo di ascoltare il cantante in tour, che si vuole proporre il video della chiusura del concerto che Ezra Mazzotti ha tenuto il 17 marzo scorso a Milano. C'è proprio su internet questo video bellissimo per quanto riguarda la canzone insieme a Luca Tommasini. davvero un video che è stato pubblicato anche sul canale ufficiale YouTube di Rosa Ramazzotti e include un altro pezzettino della sua strepitosa performance sulle note di Harlem Shake, il nuovo tormentone di un altro artista, Baur, all'anagrafe Harry Baur Rodriguez, 23enne DJ americano che ha creato il brano nel suo appartamento di Brooklyn, caricando poi tutto questo in online praticamente. Va bene, intanto noi facciamo una pausa, ritorniamo subito dopo e continueremo naturalmente con la musica richiesta anche da voi. A fra poco. Deja Vu su CRM Happy Radio. Mentre voi ascoltavate la musica che CRM Piredio vi sta proponendo tramite Deja Vu, il mio appuntamento del martedì e del giovedì, stavo io leggendo una cosa che mi sembra molto interessante, che può rivoluzionare un po' tutto quanto. Sarebbe davvero semplicissimo, molto presto sarà, potrebbe essere una cosa imminente, sarà facilissimo praticamente fare le analisi del sangue, basterebbe un piccolo aggeggino, si possono fare direttamente a casa. Questa cosa è un laboratorio in pratica in miniatura, grande pochi millimetri cubi, che potrà essere impiantato sotto pelle per fare le analisi del del sangue e trasmettere gli esiti direttamente allo smartphone del medico. Pensate un po', lo hanno sviluppato Giovanni De Micheli e Sandro Carrara presso il Politecnico Federale di Losanna in Svizzera. Il prototipo è stato presentato in Francia e promette di rivoluzionare naturalmente il monitoraggio e il trattamento di pazienti affetti da malattie croniche come quelli sottoposti a chemioterapia. Pensate che idee innovative. Musica di qualche tempo fa arriva da Sheryl Crow, If It Make You Happy, se questo può farvi felice, ascoltiamola. Déjà vu su CRM Happy Radio. così fa dura da giocare. Beati loro poi se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi di far la guerra, ambire poi alla pace. E nel silenzio mio annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare quello che non ho saputo scegliere. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Non accetterò un altro errore di valutazione. L'amore in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che fossero poche stupide. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te. Mentre il mondo cade a pezzi, mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini, ma tornerò all'origine, torno a te che sei per me l'essenziale. Marco Mengoni a CRM Happy Radio e donne all'ascolto, vi risulta che vi svegliate spesso nervose, che siete più nervose degli uomini la mattina quando vi alzate, soprattutto voi che convivete, insomma, che vi svegliate la mattina con qualcuno accanto, magari il vostro partner si sarà accorto di questa cosa, la riscontrate questa cosa qua, che ci si alza la mattina più nervose del solito, quasi come se non avessimo riposato, più stanche della sera prima che ci siamo andate a coricare. E sembra proprio che per noi donne non è raro che al mattino succeda questo, essere innervosite ed essere stanche dal primo momento in cui si poggia il piede a terra. Questo fenomeno è soprattutto una prerogativa femminile, infatti sembra. Gli uomini in genere al risveglio sono riposati e allegri. Questo mi risulta un po' meno, però a detta di questo articolo sembra che sia così. E perché le donne si svegliano più nervose degli uomini? Questa è una domanda che si fanno in molti, e a spiegare questa cosa, a spiegare il motivo di questa profonda diversità, è una ricerca condotta dalla Duke University del North Carolina. Gli studiosi hanno chiarito che il genere femminile ha praticamente rispetto ai maschi, agli uomini, ha maggiormente bisogno di riposo. Ecco perché capita di frequente che per una donna la mattina inizi subito male, soprattutto se non è riuscita a concedersi le giuste ore di sonno. Il non riuscire a dormire bene ha un forte impatto negativo sull'organismo femminile, che reagisce sviluppando patologie cardiache, depressione e addirittura nervosismo. Invece per gli uomini gli effetti negativi legati all'insonnia senza dubbio sono meno forti, a quanto pare. La donna che non riesce a dormire a sufficienza o che riposa male è portata ad essere stressata, ma anche a manifestarsi in altre gravi patologie, in altri gravi problemi di salute, come la possibilità di andare incontro ad un ictus. Pensate un po', poi la cosa si fa seria. Il malessere generalizzato si trasforma poi in agitazione e nel nervosismo, che stupisce i compagni maschi, insomma, che si ritrovano una persona accanto già nervosa di primo mattino, il che non è sicuramente un bel vedere. E compromette e condiziona anche l'umore del partner, perché no? Comunque sia, effettivamente, se ci penso bene, anche io non è che mi svegli la mattina sempre fresca, allegra e pettinata, anzi, anch'io molto spesso nervosa, chissà che sogni faccio, chissà cosa sogniamo, che incubi che facciamo per svegliarci già stanchi a prima mattina. Si sa che noi donne siamo complicate anche quando sogniamo di notte mentre dormiamo. Va bene, intanto ci fa segnare la musica di Luciano Ligabue, che sentiamo con Non messo via. Un po' di rumore, dicono, così si fa. Il comodino c'è una mina, tu si le da 6.000 watt. Ho messo via gli rimpiattini, dicono, non ho l'età. Se si voltano un momento, io ci rigioco, perché a me va. Ho messo via un po' di illusioni, che prima o poi basta così. Ne ho messe via due o tre cartoni e comunque so che sono lì. Ho messo via un po' di consigli, dicono, è facile. Li ho messi via perché a sbagliare sono bravissimo da me. Mi sto facendo un po' di posto e che mi aspetto, chi lo sa. Che posto vuoto ce n'è stato, ce ne sarà. Ho messo via un bel po' di cose, ma non mi spiego mai perché io non riesco a mettere via te. I segni quelli non si può, e non è il male nella botta, ma purtroppo è livido. Ho messo via un bel po' di foto che prenderanno polvere, sia su rimorsi che rimpianti, che rancori e sui perché. Mi sto facendo un po' di posto e che mi aspetto, chi lo sa. Che posto vuoto ce n'è stato, ce ne sarà. Ho messo via un po' di cose, ma non mi spiego mai perché io non riesco a mettere via te. Questa terra che dondola, dondola, dondola, dondola, con il conforto di un cielo che resta lì. Sto facendo un po' di posto e che mi aspetto, chi lo sa. Che posto vuoto ce n'è stato, ce ne sarà. Ho messo via un bel po' di cose, ma non mi spiego mai perché io non riesco a mettere via, riesco a mettere via, riesco a mettere via te. Déjà Vu su CRM Happy Radio. Intramontabile questo successo dei Roxette, She's Got The Look, che ogni tanto ci piace ricordare all'interno di Déjà Vu qui su CRM Happy Radio insieme a Mary Catalano con voi ancora per circa 20 minuti. E mentre sentivamo questo singolo io leggevo una notizia che un po' mi sciocca, però a quanto pare è veritiera. Infatti l'Organizzazione Internazionale per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, OCSE, ha reso noto il risultato di una ricerca secondo cui gli insegnanti favoriscono le ragazze e gli studenti benestanti o provenienti da ambiti socioculturali più favorevoli. Accidenti! A parità di prestazioni, i voti assegnati agli studenti maschi o provenienti da un ceto sociale meno prestigioso sono più bassi rispetto a quello delle ragazze e agli abbienti. L'Italia è il paese con maggiore divergenza tra saperi reali e voti attribuiti dagli insegnanti, e questa è una notizia che veramente sciocca un po' tutti. E intanto dimentichiamoci di questo fattaccio e andiamo avanti con il nostro appuntamento. C'è un altro bellissimo singolo di questo periodo, però ritorniamo ai giorni nostri musicalmente parlando con la musica di Rihanna. I threw my head the broken one, but I'm the only one who needed saving. 'Cause when you never see the light, it's hard to know which one of us is caving. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me out the way I want you to stay. Déjà vu su CRM Happy Radio. Anche Nancy a CRM Happy Radio, intanto sbarcheranno a Firenze. Il primo nome di spessore internazionale dell'estate fiorentina animerà la serata del 16 luglio a Lobby Hall. La band inglese, capitanata da Skiena, in tour da mesi per l'Europa dopo l'uscita dell'ultimo disco Black Traffic, si concede una sosta a Firenze dunque, promettendo un live di alto livello naturalmente. Ad oggi è il nome più prestigioso dell'estate fiorentina, che nel corso dell'estate 2012 ha regalato una quantità davvero mostruosa di live memorabili, e sicuramente si ripeterà il tutto nell'anno 2013 appunto corrente. Intanto questa mattina abbiamo sentito Over the Love, però c'è già il nuovo singolo per quanto riguarda gli Scanchenensi, che senza dubbio molto presto ascolteremo, o comunque capiterà sicuramente l'occasione per sentire il nuovo singolo per questo gruppo che abbiamo appena ascoltato. Ci fermiamo per qualche istante, poi ancora qualche minuto insieme, e vi ricordo che al termine di Déjà Vu ci sarà l'appuntamento con Filippo Glorioso, con Carta e Penna e con i suoi ospiti, anche oggi numerosi. Déjà Vu su CRM Happy Radio. Déjà Vu su CRM Happy Radio. Shimmy, shimmy, yeah, huh? ASAP, get like me. Never met a mother fresh like me. All these motherfuckers wanna dress like me. But the chrome to your dome make you sweat like me. Cause I'm the Nella, the Coochie.